che è finita quella, quella dei Marò. Vi segnalo anche, prima di andare verso la conclusione, un, due pagine di Repubblica interessanti sui profughi cristiani in Siria. Si avvicina il Natale, anche per le confessioni religiose, diciamo la quindicina di sette che si rifanno alla Chiesa di Roma, sparse tra la Siria, Libano e Iraq, essere cristiani in quei paesi non è certamente facile. Allora, tra i profughi cristiani di Siria, Alberto Stabile racconta dal Libano: Al-Qaeda ci dà la caccia, un altro Natale di esilio e paura. Sono due pagine molto belle di racconto che trovate su Repubblica a pagina 24 e 25, con anche Monsignor Sacola, il patriarca di Babilonia, che dice: siamo dimenticati dall'Occidente, vogliamo l'aiuto del Papa. Lo so che molti di voi attendevate, che noia, come siete noiosi, noiosi quanto il derby di ieri, noiosi e fastidiosi. Ah, c'è anche Non Leggerlo forse che mi ascolta, lui, Non Leggerlo su Twitter, che mi ha scritto: leggi la Gazzetta interista, mamma mia, contenti di aver vinto come al solito il derby, come negli ultimi 25 anni da che mi ricordi, dominati come sempre dal Milan, e poi la classica botta di culo l'Inter. E quanti derby ha vinto così l'Inter? Va bene, bravi, bravi, gioite, gioite, gioite. Allora, per contrappasso, per contrappasso a un noto interista, a un notissimo interista, Beppe Severgnini, oggi va il premio La Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, a mio insindacabile giudizio, per contrappassone all'interista Beppe Severgnini, che in prima pagina, pensate, non a pagina 50, ma in prima pagina del Corriere della Sera, fa questo titolo: ma di cosa parleremo al cenone? Di cosa parleremo? Beppe Severgnini, pranzo di Natale. E poi la piccola guida per un pranzo senza liti. Evitare alcuni argomenti: i matrimoni omosessuali, i matrimoni allargati, individuare subito i possibili piantagrane, evitare i temi ereditari. Ma Severgnini, ma chi se ne frega? Ma mangiate tranquillamente lo zampone e le lenticchie. E ricordati che la carta costa anche tu. Ci troviamo dopo il giornale radio. 24 mattino. Eccoci qua, cari ascoltatori, sono le 8 e 16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, vogliamo parlare in questo spazio oggi di calcio, ma lo vogliamo fare in modo un po' diverso, non del calcio giocato in quanto Milan, Inter, Juve, anche perché io da milanista proprio di calcio quest'anno vorrei non affrontare neanche l'argomento dal punto di vista, no, della Serie A. Diciamo, ci rimoduliamo, ne riparliamo l'anno prossimo, quando riprenderà il campionato di calcio, eh? Facciamo così. No, vogliamo parlare di calcio e sport, parlando, se si può ancora in Italia, di questo gioco, dovrebbe essere ancora un gioco, no? Soprattutto come metodo educativo per molti ragazzi che non solo sognano di diventare come Leo Messi, ma si avvicina ai campetti da calcio per cercare di essere anche appassionati nell'affrontare questo tipo di sport. E lo facciamo perché di recente sono rimasto colpito da alcuni episodi avvenuti. Il primo è una dichiarazione di Paolino Pulici, grande bomber del Torino anni 70, no? Che quando parlava e quando è stato chiamato a commentare anche le vicende di alcuni tifosi, piccoli tifosi, che allo stadio della Juve avevano insultato il portiere avversario, beh, aveva detto: sapete cos'è la rovina del calcio? Sono i genitori, la mia squadra ideale, detto da Pulici, che da 16 anni si occupa di insegnare calcio ai giovanissimi, la mia squadra ideale è fatta di orfani. Gli orfani, i genitori sono la rovina dei bambini. Molti rovinano i figli senza nemmeno rendersene conto, non hanno raggiunto i risultati sperati e riversano sui bambini le proprie frustrazioni. Ebbene, il secondo episodio è che lo scorso 15 dicembre, in una partita di giovani undicenni a Pisa, due genitori iniziano a zuffarsi per una questione di una sostituzione sugli spalti, al che l'allenatore Alessandro Birindelli